ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, torneremo a commentare i dettagli, più ve ne sono, dell'operazione annunciata ieri su Autostrade per l'Italia, e quindi l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti, la diluizione nell'arco di un anno, se abbiamo ben capito, della quota di Atlantia, quella che viene chiamata dei Benetton, anche se i Benetton di Atlantia hanno il 30%, ma comunque Atlantia l'88% di Autostrade per l'Italia, è l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti. Dunque, non sono attenzione a chi dice diamo soldi, la CDP entra in un titolo che poi verrà quotato, perché Autostrade per l'Italia poi andrà in borsa, entra in una società, scusatemi, che poi andrà quotata, è un investimento, non è che stiamo dando soldi a fondo perduto. E quindi il tema adesso si sta spostando su quanto dovrà essere remunerativa la nuova Autostrade per l'Italia, che certo non potrà essere in maniera così generosa per gli azionisti come ha fatto l'attuale Autostrade per l'Italia in questi anni, grazie anche aumento dei pedaggi e investimenti più bassi del previsto di quanto dichiarato, ma dovrà avere un minimo di redditività, minimo si fa per dire, perché comunque intanto perché la verrà quotata e poi perché la CDP che ci mette i soldi non può certo perderli, e quindi si tratterà, lo dico in maniera un po' brutale, di trovare un bilanciamento tra una gestione meno orientata solo, diciamo, all'utile e quindi anche che tenga più in considerazione il rapporto con gli investimenti e le tariffe dei pedaggi, ma ricordando che la società che nascerà con la nuova governance che vi sarà quotata in borsa e dovrà essere una società che sta in piedi da sola, altrimenti sì che qualcuno mi dice qua rischiamo di nuovo l'operazione all'Italia. È un po' diversa adesso, comunque vi arriveremo, questo nel giorno in cui nel frattempo il decreto rilancio, quello che avevo chiamato ristoro, doveva essere il decreto maggio, ricorderete, insomma, è stato approvato definitivamente, è quello che contiene per esempio l'eco bonus al 110%, segnalo la guida del Sole 24 Ore con le quattro pagine dedicate proprio all'eco bonus, prevede interventi per circa 55 miliardi di euro, e magari li ricorderemo anche nel corso della puntata, perché parleremo anche della parte, diciamo, di interventi dello Stato. Nel frattempo le altre notizie riguardano la Banca Centrale Europea, che oggi, come ampiamente atteso, ha lasciato i tassi di interesse invariati. Il tasso principale fermo allo zero, il tasso sui depositi meno 0,50, il tasso sui prestiti marginali allo 0,25%. La Presidente Christine Lagarde ha detto che è ancora necessario un ampio stimolo monetario e che la BCE continuerà gli acquisti di debito dei vari paesi, il programma PIP, almeno fino a giugno del 2021. E poi in maniera flessibile, quindi vuol dire per classi, e anche per paesi. Ancora le stime della BCE, ha detto la Lagarde, tengono conto del peggioramento anche negli Stati Uniti, e ne parleremo. L'operazione di CDP, ripeto, sarà oggetto comunque di approfondimento. Chiuderemo con le, ahimè, scadenze fiscali in arrivo, perché da oggi ci sono praticamente, a fine luglio passano complessivamente 246 scadenze fiscali, il 93,5% riguarda proprio i versamenti. I commercialisti sono preoccupati, preoccupatissimi, perché chiedono che l'appuntamento col saldo 2019 e l'acconto 2020 delle imposte dirette sia ulteriormente rinviato a fine settembre, dopo che il DPCM aveva prorogato dal 30 giugno al 20 luglio e dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40% per 4 milioni e mezzo di partite IVA. Tra l'altro ieri sono arrivati i dati su quanto è costata alle casse dello Stato tutto l'insieme di provvedimenti la sospensione dei versamenti di marzo, aprile e maggio ha significato una flessione di 22 miliardi, l'8,5% in meno di entrate tributarie e contributive nei primi 5 mesi rispetto ai primi 5 mesi dell'anno scorso, quindi lo Stato ha incassato 22 miliardi e mezzo in meno. E, tra l'altro, per la proroga serve a questo punto una norma primaria, si chiama in gergo, cioè un decreto, non basta, e quindi potrebbe essere inserito nel nuovo decreto che il governo sta studiando per i nuovi fondi di cassa integrazione e comuni e regioni. Però bisognerà anche comunicare che in questo momento non vi sono sanzioni e quali sanzioni vi siano invece per chi non rispetta i termini. Detto questo, ne parleremo nella giornata in cui la borsa sostanzialmente per quello che riguarda Piazza Affari è positiva ed è l'unica ad essere così positiva, anche se di poco, più 0,40%. Parigi perde lo 0,20%, Francoforte lo 0,30%, Londra meno 0,50%, l'America meno 0,36%. Allora, oggi realizzi su Atlantia meno 4,60%, Ferrari meno 1,5%, Moncler meno 1,5%, Exor meno 1,20%. Invece, in positivo, Telecom Italia più 4,5%, Amplifon più 2% come Saipem ed Era, Snam più 1,6% come Buzzi Unicem e Intesa San Paolo, ma anche Tenaris e A2A Prismian guadagna 1,5%. Come sempre 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Arriveremo ad Autostrade per l'Italia. Faccio notare che un'agenzia battuta poco fa segnala come il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia chiesto ad Autostrade per l'Italia la presentazione entro il 23 luglio del piano economico-finanziario nel quale siano riportati puntualmente tutti gli elementi anticipati dal concessionario nella proposta transattiva sottoposta alla valutazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio. Quindi Autostrade per l'Italia deve presentare l'attuazione della proposta entro il 23 luglio. Partiamo dalle notizie di carattere internazionale. Rimbalza nel secondo trimestre il PIL cinese più 3,2% su base annua, più 11,5% rispetto al trimestre precedente. Sale anche la produzione industriale del 4,8% e migliora la disoccupazione che scende al 5,7%. I dati sulla disoccupazione americana invece sono peggiori delle attese, un pochino, 1.300.000 richieste di sussidi contro 1.250.000 attesi. Però sono 17.300.000 gli americani che stanno attualmente ricevendo un sussidio di disoccupazione. Va detto che, pur essendo un livello altissimo rispetto al pre-Covid, è in calo di 422.000 unità e comunque è sceso sotto il picco dei 20 milioni che avevano raggiunto i percettori di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti. Ancora, la Commissione europea ha approvato il regime italiano di aiuti per 1.200.000.000 di euro a sostegno delle imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca, dell'acquacoltura e dei settori correlati colpiti dall'epidemia di coronavirus. Questo nel quadro temporaneo degli aiuti europei, quadro temporaneo dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato. Il regime sarà accessibile alle aziende di tutte le dimensioni attive appunto in agricoltura, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri settori correlati. Visto che parliamo dell'Italia. Oggi l'ABI aggiorna i dati sulle richieste al fondo di garanzia, quello per i 30.000 euro al 100% garantiti. Allora, o meglio, l'ABI aggiorna i dati su tutte le richieste che le banche hanno mandato al fondo di garanzia, e quindi tutti i prestiti garantiti, che sono 30.000 euro al 100%, 800.000 euro al 90% Stato, 10% Confidi, 90% fino a 5 milioni. Allora, sono complessivamente 844.000 le domande presentate, di cui 730.000 fino a 30.000 euro, che valgono quasi 15 miliardi, e i restanti 30 miliardi, 29 miliardi, valgono per le domande di maggiore importo. E invece le moratorie hanno raggiunto, le moratorie sui mutui, sui prestiti, hanno raggiunto i 290 miliardi di valore. Oltre 1.000 azionisti hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo sul crack della Banca Popolare di Bari, che è iniziato oggi al Tribunale di Bari. E, tra l'altro, sono 160 azionisti difesi dell'Unione Consumatori, altri 370 dell'Associazione Avvocati dei Consumatori, 300 dall'Adusbef, 100 dal Codacons, e chiederanno i danni agli imputati Marco e Gianluca Iacobini, rispettivamente ex presidente ed ex condirettore dell'Istituto di Credito, accusati di diverse condotte di falso in bilancio, falso in prospetto, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza. E sono tuttora sottoposti alle misure interdittive, mentre Marco Iacobini è anche sottoposto al divieto di dimora a Bari, il figlio Gianluca l'obbligo di dimora a Polignano a Mare. Beh, c'è di peggio, dai, con quello che hanno combinato. Sì, attenzione, ne abbiamo parlato molte volte alla Popolare di Bari, lì il problema è la governance delle popolari, ecco perché vanno trasformate in SPA. Cioè, non puoi avere, qualunque sia la tua virtù, non puoi stare decenni alla guida di una banca senza cadere poi in o rischiare di cadere in conflitti di interesse e, diciamo, un utilizzo non personalistico della banca stessa. Questo purtroppo ci insegna la storia recente delle popolari italiane non quotate, Popolare di Vicenza con Zonin, Veneto Banca con Consoli e tutte le Marche, Etruria, Chieti, Ferrara, insomma, ma anche la Cassa di Risparmio di Genova. L'export italiano ha fatto un profondo calo, ha registrato un profondo calo nel trimestre marzo-maggio. Faccio notare che se è del 29% il calo dell'export e del 27% quello delle importazioni, c'è un miglioramento sul mese precedente, perché a maggio l'export su aprile ha fatto più 35%. È chiaro che siamo ancora su base annua a un meno 30%, ad aprile però rispetto a aprile 2019 avevamo fatto meno 41%, meno 30% a maggio. Adesso vedremo, saranno fondamentali i dati di giugno, in cui sostanzialmente si confronterà un mese senza lockdown, perché maggio lo è stato per alcuni versi fino al 18 per alcune attività, non che c'entrassero in maniera diretta con le esportazioni, però insomma giugno sarà fondamentale su questo. Mentre non si sta risollevando il mercato dell'auto, in Europa ha fatto a giugno meno 24% rispetto a un anno prima. Il gruppo Fiat Chrysler ha immatricolato un meno 28% di vetture a livello europeo. La quota europea scende dal 6,1% al 5,7%, ma nei primi sei mesi dell'anno il gruppo Fiat Chrysler ha immatricolato il 46% in meno rispetto al periodo analogo dell'anno scorso. È chiaro che c'erano le chiusure a pesare su questo, però la cosa, diciamo, significativa è che a giugno non si è registrato un balzo nelle immatricolazioni, un miglioramento sì, ma non un balzo. Ancora per quello che riguarda le notizie di italiane, qualcuno mi sta già chiedendo sul DL Rilancio, se adesso arriverò a ricordare gli elementi del DL Rilancio. Una nota che in parte ci riguarda: in bocca al lupo a Marcella Panucci per la sua nuova avventura. Infatti ha lasciato la direzione generale di Confindustria e ha trascorso gli ultimi 25 anni della sua carriera in Confindustria. Il DL Rilancio, allora, che cosa è, perché a questo punto è legge con l'approvazione anche al Senato, è sostanzialmente la fiducia è stata confermata con 159 sì e 121 voti contrari. Che cosa porta? Porta con sé il super bonus per gli interventi che rendono gli edifici, anche le seconde case se non di lusso, più efficienti dal punto di vista energetico, o anche più efficienti e sicuri dal punto di vista sismico. Vale appunto per le seconde case, tranne le case di lusso, ville e castelli. Potranno invece usufruire i proprietari di villette a schiera. Praticamente con 110%, tu, se spendi 100 euro per la ristrutturazione in senso ecologico, energetico o sismico, puoi portare in detrazione 110 euro. Poi però c'è dentro anche l'eco bonus per auto e moto, quindi incentivi fino a 3.500 euro per chi acquista un'auto Euro 6, anche con mezzi a benzina e gasolio, e ne rottama una vecchia di almeno 10 anni. L'incentivo invece si dimezza se non vi è rottamazione. Il bonus vale fino al 31 dicembre 2020 per auto con prezzi fino a 40.000 euro. Per le auto green, quindi le elettriche e le ibride, l'incentivo arriva a 10.000 euro per le auto elettriche e 6.500 per le ibride. Poi moto e motorini elettrici o ibridi sale fino a 4.000 euro in caso di rottamazione di un mezzo vecchio. Scatta anche senza rottamazione, ma si ferma a 3.000 euro. Sempre dentro il DL Rilancio ci sono le 4 settimane di cassa integrazione Covid previste per l'autunno, che possono essere anticipate da subito. C'è la proroga dei contratti di apprendisti e lavoratori a termine per tutti i giorni. Quanti sono sti giorni di stop imposti dal lockdown, cioè quei giorni non vengono considerati come giorni utilizzati. Per apprendisti e lavoratori a termine, via libera anche all'adeguamento delle pensioni per gli invalidi totali, che passano da 285 ad almeno 516 euro. Lo sconto IMU: i comuni potranno premiare con uno sconto fino al 20% chi pagherà l'IMU scegliendo l'addebito sul conto corrente. Le patenti e le carte d'identità scadute durante i mesi di lockdown resteranno valide fino alla fine dell'anno. I congedi: per chi ha figli fino a 12 anni potrà usare i 30 giorni di congedo retribuito al 50% fino al 31 d'agosto, quindi un mese in più rispetto al previsto. I comuni dovranno usare i 150 milioni aggiuntivi stanziati con il decreto per riorganizzare i centri estivi per i bambini fino a 3 anni e anche per i più grandi, perché la fascia di età è passata da 3, come era inizialmente, dai 3 ai 14 anni agli 0-16 anni. E poi i raddoppiati fondi per le scuole paritarie con oltre 150, con altri 150 milioni. Le classi delle elementari, grazie a una deroga, potranno avere anche meno di 15 alunni. Smart working: per il 50% dei dipendenti della pubblica amministrazione con mansioni che possono essere svolte da casa, lo smart working viene prorogato fino al 31 dicembre 2020. E poi stanziati invece del 1 gennaio la percentuale salirà al 60%. Poi stanziate 40 milioni per i comuni delle zone rosse escluse dai primi fondi ad hoc. Tutto questo è contenuto insieme ad altre, ma il grosso ve l'ho raccontato, è contenuto nel DL Rilancio, che a questo punto è legge. Ripeto, le misure più grosse si chiamano super bonus, eco bonus, auto e moto, oltre che appunto quanto detto della cassa integrazione e dei contratti. Andiamo sul metro, la pubblicità, poi partiamo con la Banca Centrale Europea, autostrade per l'Italia e le scadenze fiscali. Focus Economia. We'll be right back. monetary stimulus remains necessary to support the economic recovery. Un ampio stimolo monetario resta necessario per sostenere la ripresa economica e salvaguardare la stabilità dei prezzi a medio termine. Pertanto, abbiamo deciso di riconfermare la nostra posizione molto accomodante di politica monetaria. Manterremo invariati i tassi di interesse e ci aspettiamo che rimangano ai livelli attuali o inferiori fino a quando non avremo visto le prospettive di inflazione convergere in modo robusto a un livello sufficientemente vicino ma inferiore al 2%. Continueremo i nostri acquisti nell'ambito del programma di acquisti di emergenza pandemici, il cosiddetto PEP, con una dotazione totale di 1.350 miliardi di euro. Gli acquisti continueranno a essere condotti in modo flessibile nel tempo. Effettueremo acquisti netti di attivi nell'ambito del PEP almeno fino alla fine di giugno 2021 e in ogni caso fino a quando il Consiglio direttivo non giudicherà che la fase di crisi del coronavirus è terminata. Reinvestiremo i pagamenti principali dai titoli in scadenza acquistati nell'ambito del PEP fino almeno alla fine del 2022. Until at least the end of 2022. Così Christine Lagarde, numero uno della Banca Centrale Europea, oggi nell'annunciare i tassi invariati, quindi il tasso principale rimane fermo a zero, ma la cosa più importante è la conferma, a mio avviso, di 1.350 miliardi di PEP, quindi di acquisti di titoli di Stato per l'emergenza pandemica, almeno fino al giugno del 2021. Diciamo che mentre sta per iniziare un fine settimana molto delicato per il futuro dell'Europa, non è retorica questa, ma insomma si va a discutere. Questa sera arriva il Premier Conte a Bruxelles, incontrerà Macron, che a quel punto incontrerà anche Angela Merkel e Charles Michel. Domani inizia una o due giorni delicatissima. L'Olanda non ha mancato ieri di ricordare che vuole le condizionalità. Parliamo del Recovery Fund, quindi vedere come vengono spesi i soldi, il che, voglio dire, va bene se la Commissione Europea non se lo chiede uno Stato solo, a mio avviso, perché nessuno giustamente può pensare di ricevere i soldi e non dimostrare come li vuole spendere. Però, dicevo, in questi due giorni delicatissimi, almeno il professor Donato Masciandaro, che insegna politica monetaria all'Università Bocconi ed è anche editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera, professore. Buonasera, dottor Barisoni. Dicevo, grazie dell'invito. Grazie a lei. Dicevo, almeno una certezza ce l'abbiamo, che la Banca Centrale Europea non sembra muoversi, per fortuna aggiungo io, dai binari, al di là della Corte di Giustizia tedesca che è stata, diciamo, archiviata come notizia, no? Sì, è archiviata perché la cronologia aiuta questa staffetta tra la politica monetaria e la politica fiscale. Se oggi dovessi dare un titolo, direi la BCE ha detto ora tocca la politica fiscale. Come diceva lei, ha ribadito che la politica monetaria sarà straordinaria, ma ha anche detto che non basta. E quindi la staffetta passa al Recovery Fund. Certo, la staffetta tutta femminile, diciamo, tra Christine Lagarde e nella von der Leyen, e Ursula von der Leyen, con l'appoggio non da poco questa volta della Germania di Angela Merkel. E infatti, come lei accennava, Christine Lagarde ha detto: attenzione, il peggioramento delle prospettive economiche negli Stati Uniti legato all'andamento dei contagi è certamente un motivo di preoccupazione, ma è già incluso nello scenario che abbiamo delineato. Quindi la possibilità che dagli Stati Uniti arrivi un elemento di ulteriore debolezza. E dice poi la Lagarde, ha detto: abbiamo ricevuto dagli ultimi dati segnali di un recupero dell'attività economica a maggio e a giugno un recupero definito significativo. Incoming data suggest that economic activity improved significantly in May and June. I dati suggeriscono che l'attività economica è migliorata in modo significativo a maggio e giugno rispetto ai livelli di aprile, insieme al contenimento del virus e al relativo allentamento delle misure di blocco. Allo stesso tempo, gli indicatori economici rimangono ben al di sotto dei livelli registrati prima della pandemia e la ripresa è nelle sue fasi iniziali e rimane irregolare tra i diversi settori. Dopo essere calato del 3,6% trimestre su trimestre nel primo trimestre dell'anno, prevediamo che il PIL dell'area dell'euro si ridurrà ulteriormente nel secondo trimestre. Sono emersi segni di una ripresa dei consumi e si è registrato anche un significativo rimbalzo della produzione industriale. Allo stesso tempo, le modeste condizioni del mercato del lavoro e il risparmio precauzionale delle famiglie stanno pesando sulla spesa dei consumatori. L'attività nell'area dell'euro dovrebbe rimbalzare nel terzo trimestre, poiché le misure di contenimento saranno ulteriormente allentate, anche se restano incertezze sulla velocità e sulla portata del rimbalzo. In generale, l'entità della contrazione e la ripresa dipenderanno in modo cruciale dalla durata e dall'efficacia delle misure di contenimento, dal successo delle politiche per mitigare gli effetti negativi sui redditi e sull'occupazione e dalla misura in cui la capacità di offerta e la domanda interna sono permanentemente colpiti. And the extent to which supply capacity and domestic demand are permanently affected. E poi Lagarde ha detto l'accordo europeo deve essere veloce e ambizioso, questo sull'esito del negoziato e sul maxi piano da 750 miliardi di euro. Professor Masciandaro, abbiamo ascoltato la Lagarde dire c'è stato un recupero significativo dell'attività economica anche se il livello dell'attività resta ben inferiore a prima della pandemia. A questo punto, oltre a ricordare però l'importanza che si attivi l'altra gamba, sono quattro, la BCE da un lato, MES e BEI dall'altro, SURE e poi il Recovery Fund. In attesa che si trovi un accordo sul Recovery Fund, può fare poco adesso, se non continuare sulla sua strada? Qui i due aggettivi secondo me fondamentali sono straordinaria come politica monetaria e flessibile come interventi, nel senso che il messaggio è noi continueremo ad essere in questa fase straordinaria, quindi utilizziamo i tre strumenti, tassi di interesse, operazioni sui mercati e annunci nel modo non convenzionale, però continuiamo a essere pronti a modificarne gli aspetti, quindi nessun cambio della rotta, però pronti a modificare la velocità o la posizione delle vele, se qualcosa in bene o in peggio, perché ha anche auspicato che può succedere qualcosa di positivo, perché se così faranno potranno continuare a tenere archiviata la vicenda dei mal di pancia dei falchi, perché quello che lei ha ricordato è che questa è una tregua solo temporanea, nel senso che la politica monetaria eccezionale non solo la Lagarde la deve fare, ma le conviene anche farla, perché finché siamo nella fase straordinaria falchi e colombe hanno firmato una tregua, perché non si può più parlare di effetti redistributivi. Certo. Però appena finisce la tregua i mal di pancia ritornano, e questa è una ragione in più per dire signori, guardate che sugli effetti redistributivi tra regioni, tra paesi, tra settori non è la politica monetaria che se ne deve occupare, è la politica fiscale nazionale e europea. Sì, preciso, quando si dice politica fiscale appunto si parla in questo caso in maniera inglese di politica del budget, cioè quanto deficit, debiti, emissione, fondi europei come Recovery Fund, non certo la Banca Centrale Europea, che mi sembra comunque tifare per un accordo ambizioso, chiudiamo sul Recovery, di cui poi parleremo ampiamente anche domani, visto che sarà la prima giornata di lavori. Mi sembra che la posizione della Lagarde su questo sia molto netta, pieno appoggio alla Ursula von der Leyen e in qualche modo anche alla linea franco-tedesca. Sì, perché in questa maniera lei può respirare un po' e la può smettere di tracimare. perché il suo problema è che con quello che fa continua a avere conseguenze fiscali, conseguenze sulle politiche del debito, sulle politiche bancarie, e questo significa fare redistribuzione. Ma se si fa redistribuzione, la redistribuzione è politica, e se è politica i politici ci devono entrare. Quindi meno effetti collaterali la politica monetaria ha, più la Lagarde riesce ad essere serena. Ecco, faccio notare una cosa, che mentre comunque la Lagarde può, e quindi il board, il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, può votare anche provvedimenti a maggioranza relativa, cioè non serve l'unanimità. Abbiamo visto anche ai tempi di Mario Draghi che c'erano provvedimenti in cui alcuni avevano votato in maniera contraria. Il problema di quello che avverrà da domani in poi è che serve l'unanimità, cioè delle volte non è che va bene la maggioranza, ma tenere bloccato un processo europeo per via di paesi che, con tutto il rispetto, hanno un peso economico, politico, demografico marginale in Europa. Ecco, se fosse così anche la BCE, forse non avremmo mai avuto il whatever it takes, Masciandaro. Non solo, ma non avremmo un'area monetaria in cui ci sono dei paesi che vogliono entrare. L'euro è forte, nessuno ne ha parlato, ma Bulgaria e Croazia in questa settimana hanno continuato a bussare alla porta, vogliono entrare. Quindi è l'unica istituzione europea che funziona, è l'unico club che attira membri. Forse se anche questo ogni tanto lo segnalassimo, sì, no, magari un'idea. Non lo dica a Borghi e a Bagnai, però, che hanno fatto la battaglia per uscire. No, nel senso che però è vero. Lo sapranno. Ma infatti vedo che i temi sull'uscita dall'euro sono scomparsi un po' come i Novax. In parallelo, diciamo, perché lei fa bene notare che, tra l'altro, con tutto quello che è successo, la forza tra virgolette dell'euro si vede anche nel rapporto di cambio. Ora, uno potrà dirmi che nel rapporto col dollaro è una vittoria facile, però l'euro è rimasto sempre tra quota 1,11 e 1,14, cioè non abbiamo mai visto, oggi è 1,14, 1,15, cioè obiettivamente, con tutti i difetti che potrà avere, si è confermata una moneta più che stabile nel rapporto non solo col dollaro, ma anche con la sterlina, col franco svizzero e quant'altro, se vogliamo misurare nel rapporto di cambio la forza di una valuta, che chiaramente non è solo quella. Ma non solo, forse un giorno ne parleremo lei ed io in una trasmissione ad hoc, ma ormai nel 2020, per un piccolo paese come l'Italia, ci sono due possibilità: o collabori alla definizione di una moneta forte, oppure semplicemente sei ancorato come paese debole a un'altra moneta forte. È il destino di tutti i paesi del mondo, tranne la sterlina, gli Stati Uniti e il Giappone. E poi c'è l'euro. Quindi il destino dell'Italia non è fuori o dentro l'euro. Vuoi contribuire a una valuta forte, o vuoi semplicemente essere ancorato a una valuta forte? Così sì. Anche lo stesso dibattito fuori e dentro forse sarebbe un po' anche più realistico. Sì, essere ancorato vuol dire, traduco, essere al traino, vuol dire non decidere nulla. Almeno qui siamo dentro il board della Banca Centrale Europea e abbiamo avuto un presidente di tutto rispetto come Mario Draghi. Grazie anche al professor Donato Masciandaro. Grazie. Andiamo adesso sul traffico e poi iniziamo con Autostrade per l'Italia. La notizia di oggi è che il Ministero ha chiarito ad Autostrade per l'Italia che vuole entro il 23 luglio, il piano economico-finanziario che riporti tutti gli elementi anticipati dal concessionario nella proposta transattiva sottoposta alla valutazione del Consiglio dei Ministri. Insomma, entro il 23 luglio ASPI deve mettere nero su bianco come riorganizza tutto, quindi 3 miliardi e 4 di indennizzo, abbassamento tariffario e poi la discesa dell'aumento di capitale, che permetterà appunto de facto di far scendere la quota di Atlantia con l'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti. E poi, come sappiamo, Atlantia dovrà, una volta scesa intorno al 20%, vendere altri soggetti privati. Ne parliamo dopo il traffico. Hai un libretto smart? Allora rendi i tuoi risparmi dei super risparmi. Attiva online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. E se non ho il libretto smart? È facile. Prima ne apri uno, prima attivi l'offerta. E a scadenza riceverai un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. Puoi farlo solo online su poste.it o da app BancoPosta. Più comodo di così. I buoni e libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane e sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Focus Economia. Dunque, con un aumento di capitale, molti mi hanno chiesto, ma cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho il 50%, o parliamo così, il 10% di un'azione che vale 1000 euro e aumento il capitale, che complessivamente il cui capitale vale 1000 euro della società, se io aumento il capitale a 2000 euro, il mio 10% diventa automaticamente un 5%, a meno che non partecipi all'aumento di capitale, perché 100 euro su 1000 sono il 10%, 100 euro su 2000 sono il 5%. Ecco perché de facto scende la quota di Atlantia in Autostrade per l'Italia, perché l'aumento di capitale non è esclusivamente riservato alla Cassa Depositi e Prestiti, che in questo modo avrà il 51% e farà scendere la quota di Atlantia dentro ASPI dall'attuale 88% al 30% più o meno. Poi Atlantia dovrà vendere un altro 22% a investitori istituzionali graditi al governo, alla Cassa Depositi e Prestiti, quindi vende a privati, non c'è un euro dello Stato, ma ci deve essere un gradimento su questo. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Inizio a ragionare con te adesso, però poi abbiamo da ascoltare anche molte dichiarazioni. Si è capito quanto dovrebbe essere, non è un versamento, non è a fondo perduto, lo dico perché se la CDP poi entra in Autostrade per l'Italia e poi il titolo si quota, è un investimento, distribuirà dei dividendi e comunque non butti via i soldi, ma quanto dovrebbe essere il valore dell'operazione per CDP? Allora, si è capito informalmente che sarà tra i 3 miliardi e 3 miliardi e mezzo circa, ma manca appunto il dato ufficiale, perché in verità manca tutto al momento di questa operazione, nel senso c'è una descrizione contenuta in un comunicato stampa, in svariate interviste dei ministri, ma non c'è un atto formale che deve ancora essere completato, e soprattutto non c'è la due diligence, cioè la Cassa Depositi e Prestiti, l'acquirente deve effettuare una valutazione, lo farà nelle prossime settimane, delle cose che va a comprare, cioè dell'aumento dell'impegno finanziario che deve mettere per crescere in ASPI. Ora, da questo punto di vista l'orizzonte, diciamo, della cifra è quello che dicevo prima, 3 miliardi e 3 miliardi e mezzo, vedremo sulla base delle valutazioni di mercato di queste settimane della società e sulla base delle stime che appunto girano, ma sono tutte stime ufficiose, non collegate all'operazione, perché l'operazione di ufficiale ancora non ha praticamente nulla. Allora, una cosa la voglio dire a chi mi scrive: attenzione, perché 3 miliardi e mezzo, che sono di capitale, non sono di investimenti a fondo perduto, sono comunque molto più bassi dei 7 miliardi e mezzo che il governo aveva messo come indennizzo possibile in caso di revoca della concessione, l'aveva messo nel mille proroghe, e che a sua volta era una cifra molto più bassa rispetto a quanto previsto dal contratto che lo Stato e il governo a suo tempo fecero con Autostrade per l'Italia, in cui in caso di revoca la stima era di dover pagare da qua al 2033 23 miliardi di euro. In quel caso tu avresti dato 7 miliardi, o peggio ancora, poi si andava verso un contenzioso legale e quant'altro, tutti quei soldi li avresti dati agli azionisti, quindi anche ai famosi Benetton, perché hanno l'88% di ASPI, di Autostrade per l'Italia. In questo modo invece CDP, che non fa parte del perimetro del debito, perché CDP non viene calcolata nel debito pubblico, entra come soggetto, in questo caso privato, e se compra il 51% di Autostrade per l'Italia, Quindi è un po' diverso dare come risarcimento ad Atlanti, ad Atlantia e quindi anche Benetton minimo 7 miliardi e mezzo, possibilmente di più perché quello era il contratto, rispetto a spendere 3 miliardi e mezzo di un soggetto che comunque è privato, che entra in una quota di capitale in Aspi. È diverso, a chi mi dice regalo o non regalo ai Benetton. Gianni, però, dopo il GR24 vorrei capire, invece, al di là del come si, secondo me il punto cruciale è come la nuova Aspi riuscirà ad essere una società che sta sul mercato e viene anche quotata e quindi non va a distruggere l'investimento della CDP che gestisce i risparmi postali degli italiani, senza però essere orientata solo all'utile, ai maxi dividendi, maxi utile come la vecchia e l'attuale Autostrade per l'Italia, a fronte di investimenti non soddisfacenti e sotto quanto promesso. Dopo il GR24. Alessandro, non parti? Eh no che non parto. Sto aspettando che suoni l'allarme di casa, metterà in fuga due ladri. Guarda, due ladri! Come facevi a saperlo? Io guardo avanti, per questo ho scelto UnipolSai. Sono i numeri uno nell'assicurazione danni e nell'innovazione, come Unibox Casa, che ti protegge da furti, incendi e allagamenti e controlli tutto con l'app. Scegli il futuro. UnipolSai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it. Mamma carne! Ostrega! Siamo Casa Surace e quelle che state ascoltando sono le reazioni degli italiani quando vedono una mozzarella di bufala campana DOP. Oh mamma mia! E questa invece è la reazione di una mamma quando non chiede il bis. www.mozzarelladop.it. Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit? Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel. Ford Transit Hybrid. Meno consumi, più attenzione per l'ambiente, stessa capacità di carico. Tuo a €230 al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAEG 454. Veicoli commerciali Ford. Da sempre al fianco di chi lavora. Nonostante questa crisi abbia picchiato duro, nonostante un futuro che sembra si sia fermato, nonostante poche agevolazioni e tante complicazioni, nonostante tutto quello che è stato fatto per scoraggiarmi, io sono ripartito. Sono un imprenditore, sono un artigiano e per fortuna non sono solo. CNA è al tuo fianco per ripartire. Guardiamo avanti, insieme. CNA.it. Finalmente la valigia è fatta. Costume c'è, ciabatte anche. Stella, Cooper, nella vostra cosa mettiamo? Per le vacanze con i tuoi animali, affidati agli specialisti numero uno in Italia. Da Arcaplanet trovi piscine in varie misure a partire da €29,90. Tappetino refrigerante a partire da €9,90. E sconto del 30% su fontanelle per cane e gatto. Qualunque sia la tua storia, Arcaplanet è il tuo store. Arcaplanet, Pet Store, Pet Stories. Nei Wind e 3 Store sono arrivati gli sconti estivi fino a €500 sui migliori smartphone. E se scegli Samsung Galaxy A20e con doppia fotocamera posteriore, con le offerte Wind 3 è incluso. Info, anticipi, costi e condizioni su wind3.it. Vieni nei Wind e 3 Store. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Continuiamo con Autostrade, sulla vicenda Autostrade per l'Italia. Devo dare una nota d'aggiornamento perché il ministro De Micheli ha detto che l'accordo che si è trovato in Consiglio dei Ministri per Autostrade per l'Italia è solo il primo di un insieme di accordi che riguarderà tutte le concessionarie. Sappiamo infatti che Autostrade per l'Italia gestisce la fetta più grossa delle concessionarie italiane, però attenzione perché su 5.870 chilometri Aspi ne gestisce 3.000 con 6 concessioni, poi il gruppo Gavio 1.200 chilometri con 11 concessioni, poi ci sono altri enti pubblici e concessionari minori per 1.650 chilometri della rete. E questo per quello che riguarda la vicenda Aspi. Dicevo prima dell'interruzione a Gianni Trovati, mi sembra che a questo punto la cosa importante sarà capire la nuova Autostrade per l'Italia, quella che dovrebbe quotarsi, quella con dentro la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti come maggioranza, Atlantia che scenderà prima al 33% e poi venderà un ulteriore 20% ai privati, come avere una società meno diciamo così ingorda di utili da portare all'azionista di riferimento Atlantia e magari non aumentando i pedaggi senza avere messo in campo gli investimenti promessi, effettuato gli investimenti promessi, però non giriamoci attorno, quelli sono soldi anche degli italiani, del risparmio degli italiani, dovrà essere una società che fa utili e quindi sì con un'attenzione tariffaria, ma non è una società diciamo pubblica intesa come che può risultare in perdita. Prego Gianni. No, infatti questo è l'equilibrio delicato che andrà trovato, perché dentro l'accordo c'è la previsione dell'applicazione delle nuove tariffe che sono più basse rispetto a quelle vecchie secondo il disegno costruito dall'autorità di regolazione dei trasporti, e c'è un programma di investimenti molto ambizioso. Naturalmente tutto questo dovrà però mantenere un livello di redditività, perché CDP deve operare come un ente di mercato, perché lo prevede lo statuto, lo prevedono le sue regole, perché se non opera con regole di mercato rientra certo. Nel perimetro della pubblica amministrazione, ci porta tutto il suo debito eccetera. C'è la gestione del debito rilevante di Aspi collegato alla vecchia gestione, e c'è il fatto che oltre a Cassa Depositi e Prestiti ci saranno degli azionisti privati di grande rilievo, fondi internazionali, si parla di BlackRock, si parla del fondo Macquarie e così via. L'equilibrio è delicato anche perché la politica fin qui ha voluto, come dire, dire la propria all'interno dell'operazione, ma ora toccherà che anche come dire, le regole economiche tornino in campo dopo questa parentesi non troppo chiara diciamo così di questi giorni. Ieri, anzi questa mattina in un'intervista il ministro Di Maio ha detto che la nuova società non dovrà operare secondo logiche di mercato. Questa è una frase abbastanza preoccupante, è verosimilmente non reale, perché invece la logica di mercato ci dovrà essere. Diciamo che nemmeno le vecchie concessioni operavano con una logica di mercato, ma operavano verosimilmente con una logica di favore, concessioni che erano state, vi ricordate, secretate e così via. Ecco che è difficile ipotizzare di passare, diciamo così, sul fronte esattamente opposto, cioè abbandonare la logica di mercato per fare perdite, perché sennò tutto l'impianto della costruzione salta. No, ma sarebbe anche sbagliatissimo. Cioè, attenzione, tu intendevi BlackRock, non Blackstone, immagino. Blackstone, non BlackRock. BlackRock, certo. Però, no, ma sarebbe anche sbagliato, perché, ripeto, qui bisogna uscire anche dall'approccio ideologico, a meno che uno ritenga che... e lo dico anche ad alcuni ascoltatori di cui capisco anche il rancore e l'amarezza, però attenzione, come continuo a spiegare, se c'è un accordo firmato dal governo 2007 Prodi, poi rifirmato e anche rafforzato dal governo Berlusconi 2008, che era oggettivamente molto favorevole per il concessionario e quindi per Autostrade per l'Italia, tant'è che anche in caso di revoca per motivi di inadempienza veniva prevista un risarcimento, se la revoca fosse arrivata adesso, il risarcimento stante quell'accordo sarebbe dovuto essere di 23 miliardi fino alla scadenza del 2033, il milleproroghe l'aveva abbassato in maniera unilaterale a 7 miliardi, quindi chiaramente in caso di contenzioso Aspi avrebbe preso in mano questo abbassamento unilaterale e avrebbe chiesto la somma massima. Questo, voglio dire, non è colpa né di chi vi parla né di Gianni Trovati, è quel famigerato rinnovo della concessione 2007-2008, tutto a vantaggio di Autostrade per l'Italia. Dopodiché c'era da tutelare anche i dipendenti, che sono 7.000 di Autostrade per l'Italia, perché è ovvio che a fronte di una revoca il gruppo dichiarava il fallimento, e molti mi fanno notare, attenzione, ci sono anche gli azionisti di Atlantia. Sì, è vero, perché Atlantia è quotata in borsa e il 30% è dei Benetton di Sintonia, ma ci sono migliaia di azionisti che hanno comprato il titolo e non valgono meno, diciamo, della Popolare di Etruria o di altre o di altre banche. Attenzione, perché non si può neanche andare a violare tutto il diritto di questi anni, perché bisogna punire i Benetton. I Benetton poi verranno, o meglio, i vertici, gli allora vertici dello Stato per l'Italia, verranno puniti in base alla sentenza o no, in base alla sentenza della magistratura. Qui però era la cosa peggiore, era infilarsi in un contenzioso in cui tiravano veramente fuori i soldi, da minimo 7 miliardi per, fino a 23 miliardi, con tutta un'incertezza sulla manutenzione e sugli investimenti futuri, che invece qui dovrebbero essere confermati. Comunque sentiamo le due posizioni molto diverse, e quindi quella di questa mattina, la 24 mattina, si sono succeduti prima il vice ministro dello sviluppo economico, quindi con Simone Spezia e Maria Latella, e mi riferisco a Buffagni, a Stefano Buffagni, che ha detto Atlantia non prenderà un soldo pubblico. Poi è intervenuta anche invece la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che la pensa in maniera radicalmente opposta. Sentiamo prima Buffagni e poi Meloni. In questa operazione l'Atlantia e di conseguenza l'azionista di riferimento non prenderà un euro pubblico. Questo lo vogliamo dire e io mi assumo la responsabilità di dirlo, e questo dovete dirlo sempre. Quindi non è vero che è un grande affare per i Benetton. C'è ancora una trattativa in corso, perché al di là appunto degli annunci ci sono una serie di dettagli in discussione e che fanno molta differenza, in particolare sulla famosa richiesta che Atlantia ha fatto di poter garantirsi che se dovesse cadere un altro ponte, la revoca avrebbe un costo comunque per loro alto, il che significa avere un importo più alto come valore dell'azienda. Dopodiché l'operazione verrà strutturata ed è stata ipotizzata con un aumento di capitale in ASPI, aumento di capitale necessario guardando gli economics dell'azienda, perché sennò non è in grado di sostenere gli investimenti, e vada a guardare i numeri, non si fidi di certo di un politico. Aumento di capitale che avverrà perché Cassa Depositi e Prestiti ha dei crediti verso ASPI e verso Atlante, stiamo parlando di miliardi, e che quindi, come la norma prevede, verranno utilizzati. Mi dici: non sei in grado di pagarmi, facciamo una trasformazione in capitale, come succede spesso. Quindi non prenderanno un euro, ma semplicemente si utilizzerà questo tipo di operazione. Dopodiché verrà fatto un aumento di capitale, anche di liquidità, per sostenere gli investimenti. Dopo ci sarà sicuramente la vendita a istituzionali del valore di una parte della quota, però a quel punto, si vedrà qual è lo stato di fatto e si procederà appunto con l'uscita progressiva della famiglia Benetton, perché chiaramente loro hanno una parte di Atlantia e di conseguenza l'assegnazione delle quote di ASPI alla società Sintonia verrà fatta appunto con una serie di operazioni. Il problema che noi abbiamo cercato tante volte di sottolineare di queste concessioni è che il problema fondamentale e che sono dei curiosi contratti nei quali in pratica c'è scritto che se uno dei due contraenti non adempia i suoi obblighi non ci sono conseguenze. Per cui sempre sulla carta noi possiamo dire che ASPI farà tutte delle cose bellissime, ma se non si modifica il contratto di concessione non si stabiliscono, diciamo così, conseguenze stringenti nel caso in cui quegli adempimenti non fossero mantenuti, noi no, purtroppo, diciamo sempre sulla carta. Poi magari verrà qualcuno più bravo dei Benetton, non lo so, ma sempre sulla carta secondo me abbiamo un problema. Per questo dico, per carità, io sono, secondo me, ma io ero per la revoca della concessione, va bene. Certo non puoi revocare la concessione in una notte, perché il problema è anche la cialtroneria con la quale secondo me si è mosso il governo, che è stato di fatto fermo alla fine due anni, e poi quando è arrivato a non poter più rinviare la decisione, perché c'era appunto il tema della gestione del nuovo ponte, c'era la vicenda della sentenza della Corte Costituzionale, ha dovuto in una notte trovare la soluzione meno peggio, ma secondo me ci si poteva muovere diversamente, intestandosi seriamente quel dossier dal giorno dopo il crollo del ponte. Poi segnalo la posizione anche di Renzi, che oggi ha detto, è troppo complicata la vicenda da riassumere in poche righe, la e-news di Matteo Renzi, però ha detto: i privati non vengono cacciati ma pagati, noi avremmo preferito intervenire a monte su Atlantia, se avessimo fatto l'operazione di CDP su Atlantia avremmo speso meno per controllare meglio un insieme di business più ampi. Sì, però uno, aggiungo io, poteva dire che allora entravi proprio nella società dei bene dove Sintonia al 30%, comunque Atlantia. Però detto questo, Gianni, a questo punto bisognerà capire esattamente tutti i dettagli dell'operazione per concludere con te, avendo chiarito che pur dico purtroppo perché quello è un maledetto contratto del rinnovo della concessione 2007-2008, rispetto a quelle clausole, queste sembrano più vantaggiose per il bene pubblico. Non, allora, la frase di Di Maio che dice non dovrà operare secondo logiche di mercato, spero che sia una frase dal sen fuggita, se no che cosa ha incontrato Draghi a fare? Perché voglio dire, deve operare in logica di mercato, visto che poi la quota in borsa, ministro Di Maio, non si può creare un'economia assistita, bisogna tornare ad un'economia in cui i privati abbiano degli obblighi, li rispettino, e questo non è stato il caso di Atlantia e anche di Benetton, ma non immaginiamo un'economia in cui adesso Aspi diventa una specie di che cosa? Alitalia? No, perché Alitalia opererebbe in regime di mercato, non ho capito bene di cosa, di Nuova Iri, però mi sembra importante a questo punto ricordare che comunque si va non a spendere perché entri con l'azionariato, ma con un costo più basso. Adesso sarà importante capire, Gianni, i dettagli su cui si muoverà la nuova creatura, no? Sì, ecco, va detto che l'aumento di capitale non sono soldi dati ai Benetton, no. Ma sono appunto un aumento di capitale che fa crescere il capitale della società e che ne cambia quindi l'assetto proprietario, perché è un aumento di capitale riservato a cui i Benetton non potranno, e le loro società non potranno partecipare, quindi la loro quota si diluirà. È importante capire i dettagli, è importante per chiudere ricordare anche un'altra cosa. È vero che le concessioni erano fatte male, erano squilibrate e favorevoli nei confronti del concessionario, è vero anche però che all'interno di questo squilibrio prevedevano comunque dei controlli. Che il Ministero non ha fatto, certo. Che non sono state fatte, tanto è vero che parliamo di certo. Ipotesi di comunicati del Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera, c'è anche la manleva per le responsabilità passate, quindi insomma il contratto era di favore, ma chi l'ha firmato da parte pubblica non si è nemmeno preoccupato, verosimilmente, negli anni, certo. Degli obblighi che comunque c'erano. Sì, che non vuol dire dare la colpa di un reato al mancato controllo, però è ovvio che i controlli servono anche per evitare e per controllare appunto che tu rispetti gli accordi. Devo dire che ha ragione invece Buffagni nel ricordare che la CDP ha crediti per 2 miliardi, se non ricordo male, nei confronti di Autostrade per l'Italia, quindi va a convertire quei crediti in azioni, come già altre volte avviene, e poi il resto invece sarà aumento di capitale. Grazie anche a Gianni Trovati, andiamo sul traffico e poi rapidamente la richiesta dei commercialisti, visto che stanno per arrivare, anzi con oggi partono complessivamente 246 scadenze fiscali. Lei l'hai aspettata 39 settimane e 17 ore. Lei... 5 minuti e scendo! La stai aspettando da 23 minuti. 24. E allora perché vuoi aspettare anche lei? Non aspettare il bonus statale per scegliere la gamma Toyota Hybrid. Già a luglio puoi averla con Hybrid Bonus fino a 8.500 euro, qualunque sia il tuo usato. Dettagli e condizioni del bonus per ogni modello su toyota.it. Focus Economia. Dunque, è vero che i dati di ieri hanno mostrato che l'emergenza coronavirus ha rappresentato per l'erario un mancato introito nei mesi diversamente tra marzo, aprile e maggio, grazie alle sospensioni, di 22 miliardi e 300 milioni, meno 8,4% di entrate tributarie e contributive nei primi 5 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, quindi più di un punto di PIL. Però è anche vero che adesso arrivano le scadenze fiscali. Il DPCM aveva spostato dal 30 giugno al 20 luglio e dal 21 luglio al 20 agosto, con la maggiorazione dello 0,40%, la scadenza per 4 milioni e mezzo di partite IVA per quanto riguarda il saldo 2019 e l'acconto 2020 delle imposte dirette. Vorrei sapere dal presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Massimo Miani, buonasera. Buonasera. Che cosa chiedete al governo, fermo restando che però a un certo momento le entrate fiscali non possiamo sospendere troppo, già il gettito sarà più basso perché l'economia va peggio, ma continuare a sospendere significa creare un problema anche di cassa all'erario, prego. sicuramente può essere quello che lei dice, che sia un problema di cassa, però non dobbiamo dimenticare che comunque sono stati fatti interventi per 80 miliardi in questo periodo e sono state fatte delle scelte anche di contributi dati a pioggia, probabilmente anche a persone che forse non ne avevano bisogno, e oggi si sottovaluta un tema che è un tema che noi stiamo mettendo in evidenza da mesi, quindi indipendentemente da quello che sarà la decisione del governo, alla scadenza del 20 luglio molto probabilmente molti contribuenti non saranno in grado di pagare questo saldo e acconto delle imposte dirette. Questo lo stiamo dicendo da mesi, d'altra parte abbiamo avuto un'emergenza sanitaria, poi economica e finanziaria, che è tuttora in atto senza precedenti, e quindi questa è l'evidenza che noi mettiamo. Miani, le posso chiedere una cosa? Ma a voi basterebbe che il governo vi dicesse: va bene, posticipiamo l'acconto? Voglio dire, da un punto di vista logico, il saldo 2019 è una cosa, io ho già fatturato nel 2019, non c'era il Covid, e sono soldi che sapevo che avrei dovuto dare all'erario, non è una sorpresa. L'acconto diventa forse più sgradevole perché è un acconto su fatturati che ancora devo fare. Vi basterebbe, tra virgolette, una distinzione tra il saldo e l'acconto? No, non ci basterebbe, nel senso che l'acconto già può essere rideterminato dai contribuenti tenuto conto di quelle che sono le previsioni del reddito del 2020, quindi è un conteggio che si fa ovviamente facendo una presunzione e tenendo conto di quello che può essere appunto la diminuzione che c'è stata dedicata in questo mese, ma si può rideterminare. Il saldo è vero che si riferisce all'anno precedente, ai redditi dell'anno precedente, ma è anche vero che insomma le imprese sono state chiuse per mesi, già prima erano in difficoltà, oggi sono ancora in difficoltà in fase di riapertura, insomma, gli incassi sono, come ben sappiamo tutti, sono diminuiti molto, ci sono problemi proprio di liquidità, quindi questo è un problema, è un problema che deriva da un fatto esterno, perché non è che si sta creando una proroga perché, come è successo magari in anni precedenti, perché si vuole spostare un termine perché magari anche lo chiedono i professionisti che sono di casa nel loro lavoro. Noi lo stiamo chiedendo principalmente per i clienti. Per concludere, che proroga state immaginando, parlando? Cioè, che date immaginate? Noi stiamo chiedendo il 30 settembre, e poi un intervento che penso il governo stia già valutando, di magari rendere un po' più lunga la rateazione di tutto quello che è già stato spostato al 16 di settembre, perché non dimentichiamo che, come ha ricordato lei prima, questo minor gettito dovuto alla sospensione dei versamenti di aprile, maggio, ma anche marzo sostanzialmente per alcuni contribuenti, è stato adesso spostato al 16 settembre con una rateazione di 4 rate, quindi fino al 16 di dicembre. Se si potesse spostare, allungare un pochettino quella rateazione, anche la rateazione darebbe ossigeno ovviamente ai contribuenti e alle imprese. Allora, vedremo cosa deciderà il governo. Faccio notare che però per la proroga serve una norma primaria, cioè tipo un decreto, perché e quindi da lì l'ipotesi che venga inserito nel decreto lo studio del governo per i nuovi fondi alla cassa integrazione a comuni e regioni. La riavremo ospite una volta che il governo avrà deciso. Grazie intanto al presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Massimo Miani. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.